Non mi sembra che l'opinione pubblica internazionale sia stata colpita più che tanto dalla scomparsa di Slobodan Milošević. Non mi sembra, e di fatto non ce n'era motivo. L'ex presidente jugoslavo aveva fatto parlare molto di sé, ma oggi era sotto tutti gli aspetti un sopravvissuto. Il processo in cui era imputato di fronte al Tribunale Penale Internazionale dell'AIA si era impantanata da tempo. E anche i pochi che ci avevano creduto all'inizio si erano resi conto che non era in quella sede che ci si poteva aspettare una definizione qualsiasi delle responsabilità del massacro balcanico. Le autorità di quella corte e quelle del connesso carcere di Scheveningen hanno superato con impeccabile cinismo l'imbarazzo di chi si vede morire tra le mani un imputato eccellente. E non c'è stato neanche bisogno di portare avanti la trama che pure qualche volonteroso aveva subito suggerito di un suicidio più o meno volontario, magari compiuto grazie alla complicità degli avvocati secondo il vecchio sperimentato modello Stamhain. C'è stata sì qualche protesta a Mosca, a Belgrado in posti del genere non devono essere stati pochi cittadini serbi che hanno avuto l'impressione di aver subito una qualche ingiustizia, ma nel complesso ha prevalso il silenzio. Il capitolo è chiuso ed è molto probabile che, nonostante le dichiarazioni di questi giorni, presto chiuderà anche il tribunale. Il fatto è che di Milošević si parla malvolentieri. Non era un personaggio simpatico, non poteva esserlo, a prescindere dalle colpe che avrà sicuramente avuto nella crisi finale del suo paese e per il modo stesso in cui era stata costruita la sua immagine pubblica nei nostri paesi occidentali. È stato in un certo senso l'ultimo epigono di una serie di tiranni internazionali, di esemplare di iniquità cui è stato comodo addebitare in blocco le sofferenze dei rispettivi popoli e che sono fioriti negli ultimi decenni del secolo scorso in larga parte del mondo, chiamiamolo così, sottosviluppato. Giornalisticamente parlando, ha rappresentato una specie di variante europea alla genia dei Bokassa, degli Amin Dada, dei Pol Pot, la stessa che sarebbe stata riproposta più tardi con il personaggio di Saddam Hussein, tutta gente che ai tempi loro è stata utilmente additata all'esecrazione universale e caricata di ogni genere d'accusa e responsabilità, per poi confondersi sullo sfondo e svanire nel nulla una volta esaurita la propria funzione. Che è sempre stata in definitiva quella di rendere più difficile possibile ogni tentativo di ragionare sulle responsabilità di tutt'altri personaggi e tutt'altri governi. La logica dell'operazione è sempre la stessa, è quella per cui la messa in risalto delle nefandezze dei vari dittatori africani e asiatici serviva a spostare in secondo piano le molte colpe del colonialismo, o se mi permettete di recuperare oggi un termine così fuori moda, addirittura dell'imperialismo. Anche in Jugoslavia c'era un gran bisogno di un cattivo, di qualcuno che si potesse maledire prima e poi catturare e mettere sotto processo. Se poi il processo, per un motivo o per l'altro, compresa la sopravvenuta morte dell'imputato, non si fosse potuto portare a termine, beh, tanto meglio. Tanto meglio, visto che cerimonie del genere, per quanto prudentemente siano organizzate, comportano comunque dei rischi. E le sentenze migliori dal punto di vista di chi le organizza sono quelle che si pronunciano prima del dibattimento. Tutto ciò, come ovvio, non esonera né Milošević né gli altri summenzionati figuri delle loro personali responsabilità, ma non è questo il problema. In fondo, per quante ne abbia combinate, non è stato certamente lui da solo a scatenare il nazionalismo nel suo paese e a mandare a pezzi il vecchio equilibrio jugoslavo, che era fragile e precario di suo, figuriamoci. Un'illusione probabilmente, ma se non altro funzionava meglio di quanto è svenuto dopo. E comunque metteva in campo una serie di valori interessanti, non so, il tentativo di far convivere in pace e solidarietà più popoli divisi tra loro da vecchie inimicizie, la ricerca di una formula originale di autogestione dell'economia, il rifiuto della logica internazionale dei blocchi, insomma, tutte cose la cui sdegnosa eliminazione non ha certamente portato fortuna né a quel paese né a noi. E dallo smembramento di quella nazione, di quel paese, non era una nazione, figuriamoci, qualcuno ci avrà guadagnato di certo. ed è ragionevole presumere che sia stato quel qualcuno a promuoverla. Per esempio sappiamo che il governo tedesco ci aveva i suoi bravi interessi e che la Chiesa Cattolica anche. Non sono stati loro esponenti, naturalmente, a finire sotto processo.